vero di chi non sa che fa. Per noi che siamo persi in questa vastità, abbiamo i sogni inversi rispetto alla realtà. Resta qui con me, intanto il mio dolore è solo libertà. Ma tu che puoi capire, resta qui con me. Puoi capire.